ci deve essere per forza, sennò i vigili dicono cosa. Anche perché l'autorizzazione per me si ce l'ho io. Se riesco a liberarmi in fretta ci faccio un salto. Se non mi vedete dopo le 5, 5 e mezza vuol dire che non ce l'ho fatta. Oh, chiavo, già mi vuoi avere 5, 5 e mezza. Se sono qua puntuali loro alle 3, noi alle 4, ma massimo 4 e 10 abbiamo già finito tutto. Capito? La prima cosa mica che faccio, attacchiamo Ross, metto qua, io vado su con la scala, Ross mettiamo l'antenna, una volta rosmettata saliamo sul tetto, sono tutto un po' vecchio, metto un nuovo, mollo i tiranti, li allungo, poi non agevato, devo solo aggiungere altre due fascettine al cavo, è lavoro di mezz'ora mia, in tre lavoro mezz'oretta, capito, ci vuole più con le chiavi attaccare tutti i bulloni che a mettere il tubo, capito. Già è una cosa veloce. Vabbè, ricordate a mettere un po' di grasso in quei bulloni o qualcosa di protezione, in modo che per la prossima volta io ho cambiato già i radiali della mantova, ho tolto quelli in fibra e ho messo quelli in alluminio, senza fare nessuna modifica. Tolto quello in fibra, controllata la sezione di quello che entra dentro, preso i radiali direttamente della stessa dimensione, messi dentro i fori, cappuccetti, con la stessa vite stretto, ma tu devi vedere come ho tolto e come hanno smontato le viti, perché erano tutti protetti dalla vasellina, no? Col cacciavite, tutti, ho fatto un lavoro alla grande, adesso c'ho la mantova uno con i radiali in fibra, ormai in alluminio, come tu, i cappuccetti, i tappini, sembra comprata. Io li ho messi i ripini, però li ho messi di più di piedi, perché quelli te li troncano le cornacchie sempre, col peso li troncano, invece ho messo con i piedi e li ho messi tiranti di quella lenza Fender Massimiliano, di quella lenza elastica, cazzo che tira su orate grosse anche da 30 kg, quindi una lenza buona, non durerà in eterno, le la cambierò quando si romperà, però per il momento va bene. E a voi va bene già. No, io due radiali di scorta in fibra ce li ho, se riuscissero a rompere qualcuno. No. E non qui, curracci quindi sono bene. Eppure io non le metto niente, perché se il radiale di fibra non flette, lo tronca, e quindi non le ho messo niente. C'è già 8 anni, insomma, come il giorno l'ho comprata, nuova nuova. Va bene, dai, detto questo, vi lascio, buona cena, buon tutto e alle prossime, dai. Ciao, Massimiliano, ci si sente dopo, va bene. No, io ho voluto fare questa prova. Ce li avevo già i radiali di un'antenna che avevo qua, e quindi li ho messo quelli in alluminio, però prima o poi già la cambio questa antenna, voglio provare un altro tipo di ciclotaffi, voglio cambiare, vedere se trovo qualcosa per fare una prova. La metto a fianco, tanto c'è l'altro tubo a fianco, stacco il cavo, glielo attacco, voglio fare la prova perché non so se effettivamente ci sono antenne che possono superare la mantova, ma io con la Superstellar 24, quando ce l'ho avuta era una bomba questa antenna, quella con la bobina a bicchiere. Con la trasparenza? Ehi. E quello ha un medio radiale, vero? 24, no. C'ha 24 radialini da... neanche forse da un metro, boh, da 80. Forse sono un metro, non li ho mai misurati. 24. C'è la Superstellar 12 e la Superstellar 24. Ma c'ha una ricezione. Sant'Antonio mio. Io l'avevo montata prima, poi io sono venuto qua, poi avevo messo la mantova, fatto la cazzata. Tra l'altro l'avevo tutta pulita, messa a posto, messa dentro la scatola e messa in garage. Poi me l'aveva chiesta Mario e l'ho data a Mario Babbo. E non so se l'ha mai montata, ma ho fatto la cazzata. Il problema è che non so se la fanno ancora. Ah, c'è anche quella Roma 5. Quella Roma 5 è buona, come intendo. Ma la Superstella, caro mio, trova una bobina allucinante col tubolare in rame. È una bomba per l'antenna. C'è una ricezione qua già, mi l'avevo provata da qua, minchia. Era sul lato strada, ma... Ti immagini, accompagnavo Michele sino al piazzale della... di Dazzara di Oristano. Proprio sino dentro il piazzale mi sentiva. E mica lontano mio Oristano. In camion. Io sentivo a lui e lui sentiva a me. Capito? Era una cannonata con l'antenna. E poi l'avevo tolta, ho messo la mantova, fanculo. Poi ogni tanto sto guardando su internet se c'è... Anzi, mi sa che mando un'email a Davide, a Corrado, a vedere se me la procura lui. Se me la procura me la faccio mandare a Superstella 24. Eccolo. Eia, vai, Elio. Ma com'è la mia? Perché tu la Superstella 24 c'hai? No, ma non ricordo come si chiama, lui. No, la Superstella 24 è un mostro, è quella 24 radiali, in la fanno versione in alluminio e radiali e versione in fibra. Io c'avevo quella con la versione in fibra, proprio una rottura di balle che non ti dico, mettete questi radialini, viti, radialini, viti, 24, una... Poi c'è le viti doppie con la piastra doppia, è fatta anche molto molto bene. L'unica cosa che ha è che il tubolare verticale è molto più fine della mantova. E quindi il mio problema era che si spezzasse prima o poi, perché fletti è un bel, capito? Qui su è troppo alto per montare antenne del genere. E quindi l'avevo tolta prima che si rompesse e avevo montato la mantova, capito? E la mia comunque ha 24 radiali, Però qua c'è scritto Spit Game. Ah, tu c'è la versione Spit Game, sì, la conosco. Sì, è tipo la Super... la Superstella 24. Quell'antenna la fa la Sigma, questa Superstella 24, quella lì di che casa è, della LEM? Ecco antenne. Ah, della Ecco antenne addirittura. E il tubolare com'è, centrale, verticale? Bello, quello grosso, sì, una bella antenna, 3 kW. Vedi, quella era 5 kW addirittura, però, cazzo 27, 5 kW, cosa devi caricare? Ui. Sono stronzate, i 27, cazzo, non sono buoni, 3 kW, ma... Oh, io quella lì l'ho usata con 922, 922 in banda laterale, quasi 2 kW, quindi... In AM lo usavo con 900 watt, 1100, funzionava che era una cannonata, era proprio il periodo che ero arrivato qua. Che... Sassa schioppettava forte e sciugato, ma tanto immaginate già col 9 col TL 922 il 430, ancora il 440 non era uscito, il primo 430 che avevo comprato da Mario Nottari col 922, cazzo, 1100 watt puliti in antenna, perché ero nono piano, 10 metri di cavo puliti, cosa succedeva dentro Sassari? Mamma mia, ogni lotta, mi rimbugnano i poco portanti, grazie. Mi immagino anche la bolletta come potesse essere. Ehi! La bolletta, ero collegato all'ascensore, ero all'ultimo piano già, cazzo io non la paga voi la bolletta. Ah, e io più. A te la mente tu quando vedi, dove vedi, corso amico? Corso Trinità, là, tira il corso Trinità. E ma già mi ricordo quelle lotte notturne che hai. Oh Maria, Santa Maria, Madre Nostra. No, no, già, io ero collegato alla forza motrice, la 220 dell'ascensore. Il cavo per alimentare l'amplificatore arrivava da lì, era l'ultimo piano, cazzo, che casinista, che per carità, e becca voi bugnetta, Luca, mamma mia, cazzo, che dite, mi sa curareci, cazzo, entra e via. Oh Gianni, dimmi, ma il tuo baracchino da tavolo? Questo. Oh cazzo, già, è entrato io, Graziano, stagira, e ha detto che era zecchetto un baracchino da tavolo invece di da base. E gli ha detto, no, io se vuoi c'ho un magnum. Ma ha detto, ma cos'è? Da tavolo anche quello? No, dell'algida, l'ha detto, vedi. Dopo, cartesi di Mariga. Aiuto. Vabbè. Ne dice di tanto. Sì, perché caso voi non avete il baracchino col cannocchiale? Dopo ha detto, no, baracchino col cannocchiale. Mi fa morire la fiamma, cazzo baracchino con un cannocchiale, cos'è? Voglio dire. È un ragazzo di gioco, è con un cannocchiale, boh. Forse con qualche, io ce ne so, con qualche sistema, boh. È più un cannocchiale, boh. Andare. E vabbè. Comunque le specifiche dell'antenna sono 48 mm alla base, quasi 5 cm lo stilo. Cazzo, allora è buona quella, Elio. Allora è buona, considerando mi pare che la mantova è 51-52, siamo lì. Siamo lì, allora è buona, vedi, quella della Eco allora è superiore a quella che faceva la Sigma e la Lemma, perché il piantone, mi ricordo, era da 38, figurati, neanche 40. Ma qua dice diametro stilo centrale 48 mm alla base, 8 mm in punta. Cazzo, 8 mm quadro in punta è buono. È buono, no? È molto più grossa di quella che avevo io. Sì. Quanto costa quella di 5 ottavi? Questa è una 5 ottavi, 3 kW e mezzo di potenza, ecco. Altezza 6,20 m. No, io l'ho presa, non l'ho comprata nuova, l'ho tirata da un vecchio CB. 6,20 m è un pochino più corta della mantova. La mantova è quasi 7 metri. Sì, però come struttura va bene. No, adesso chiamo a questo mio amico, questo che ha preso il microfono Gianni, a Davide Corrado, e vedo un po' cosa mi dice, se ce l'ha o della Lemma o della Sigma, magari da Mantova, capito? Perché le fanno tutte a Mantova, dove è nato il nome Mantova 1 e Mantova 5, lì da Mantova, se ce l'ha me la faccio mandare, perché è un'ottima antenna quella, eh? Vai già. C'è anche Roma 1, Roma 5. Oh, e quindi la vado in a Roma? Cappa. Sì, c'è la Roma 1 e la Roma 5, le conosci? No, ma come la Mantova? Come la Mantova? Sì, bene o male sì, come la Mantova. Anche le tipi di guadagno buoni, eccetera, eccetera. Prova a cercarla su internet, Roma 5. Antenna Roma 5, vedi. Allora, vado io a vedere. Riprendi, Elio, ma passiamo in AM? Per me non sono problemi, io sento bene anche qua. Niente, qui c'ha i radiali che sono da un metro questi, e ne ha 24, tutti in fibra di vetro, antivibranti. Quella che avevo io era la versione con i radiali in alluminio, da 80 cm, forse neanche un metro erano, 24. Ben fatti, a doppia piastra, col bullone passante nella piastra, ben fatta veramente, però lo stilo verticale era molto più fine rispetto a quella, forse erano le prime che avevano fatto, non lo so. Cappa, sicuro. E poi sopra c'ha, sopra la bobina, un altro, diciamo così, sono tre radialini piccoli, che praticamente è per regolare le stazionarie. Capito? E cioè, 5 cm di misura, abbassando la sorellana. Ma ne ha tanti di questi radiali del picco? Tre. E come la vedo questa terra? Cosa so? Canale di sopra e canale centrale, così? No, praticamente tu quando monti l'antenna col carro, attacchi lo strumento, uno sta sull'antenna e controlla il stazionale. Allora, se la abbassi, ti abbassa la frequenza, capito? E alta, se la alzi, ti alza la frequenza. Cioè praticamente ti alza l'SVR, no? Le stazionali. E una volta che è regolato lo blocchi. Prova a vedere se la fanno ancora, Claudio. E adesso ho fatto antenna Roma 1 e mi dai radio antenna 1 SRL, antenna 1 107 FM, ma che è quello? Metti Roma 5 invece che Roma 1, metti Roma 5, quello sei sicuro che c'è. Quella Roma 1 è una radio del bar. Forte antenne, forte Apache. Ah ragazzi, ma la cara l'antenna è? L'antenna dell'indiana, che tu porti a pace? Poi, cosa hai messo tu? Antenna, metti antenna 5 ottavi, Roma 5, vedrai che te la va. Adesso scriviamo antenna 5 ottavi, aspetta. La Pasca. Allucinante Claudio. Ma quanto scrivi? Antenna 5 ottavi, Roma 5, e beh, 1 euro, Roma 5 diritto, punto vendita, Roma 3, 5 orari, cazzo, la stazione ferroviaria. Cazzo, l'ho vista su eBay, io l'ho vista su eBay, non è che me lo sono inventato, Cla. Adesso se non la fanno più non lo so, però questo qui stavo vedendo, un'antenna Roma 5 si chiama. Sì, ma ci avrà qualche altra sigla, boh. Se metto Roma 5, Roma 1 che se me appaccio l'antenna degli appacci, cazzo, degli indiani. Mi sa la stazione di Roma. Questo è come la casa di Graziano. Adesso lo cerco io. Fai così, fai. A me mi dai poco coglionati, boh. Invece la tua si chiama Elio, della contenne, come si chiama? Spitti Gagli. Come si chiama? Fammi da piano, Pitti? No, Spitti. Allora, Sassari, produttore, Italia, Torino. Poi Genova, Ancona, Italia, Napoli. Cazzo, cazzo di computer, cos'è tu? Non è tanto che mi dice un bambino, mi dice anche a te. Che etichetta di qualche mattina? Non... Buh. Allora, aspetta, che cambio sedia, se no non ci capisco niente. Allora, parla piano che scrivo. Come si chiama? Sierra, Papa, India, Torino, vabbè. Poi Genova, Ancona, Italia, Napoli. Spit in. Ok, questa me la sì, eccola qua. Spit 10 ottavi, Roger K. Troppo, vediamo, qua ci sono le foto. 26 cartamente più paro 12 metri annunci Milano. Allora, che dovrebbe essere questa, 24 radiali, fammela vedere. Sì, sì, già è questa. Già è questa, già è questa. Sì. È questa qua, è simile a quella che c'avevo io. È simile a quella che avevo io. No, guarda, una bella antenna veramente. Io perlomeno, mi sto trovando bene. Se non è alta dal tetto, mi sarà 2 metri e mezzo, 3 metri. Sì, ma fa la antenna, infatti si chiama Echo Split Gain. Echo Split Gain. Sì. Anche questa qua, 24 radiali, vedi che ci sono due foto, in fibra e in alluminio. E tu dove stai guardando? Sul Roger K? Tutte e due le sto guardando. Sia quella in fibra che quella in, in alluminio, però i radiali sono talmente corti e ben rinforzati che secondo me non le fa niente la, la cosa, le cornacchie, capito? Non le fa assolutamente niente. Sì, molto flessibile, dice qua. Sì, ne parlano tutti bene. Alla grande, ne parlano bene, sì. Sì, perché io l'ho già provata, capito? E quindi va bene. Sì. Ma questa l'ho beccata da quel CB, capito? Da quale CB? Quello vicino a casa. Ah, ho capito. Ma no, mami, tu la vedi, quella smontata, perfetta. L'abbiamo smontata, radiale per radiale, tutto in uscito perfetto, bella, qui. Se ce l'ho troppo contento, infatti quando l'ho ripiazzata non ha fatto bene, l'ho ripiazzata tranquillamente, veramente bello. A me Gianni, e questa Roma 5 è Tiburtina, trovato è. Aspetta che faccio una PC. KK, va bene. Sto guardando lo strumento del, del 430. 50. 190, 90 sta segnando, cazzo è precisa, non me l'ho mai accorto in FM, 90 watt sta segnando sullo strumento della radio, 90 watt sta segnando sulla T25A. Io Gianni che c'ho fame. E io hai preso? No, io ho preso un tuo assieme, guarda che burattino, capito? Ho preso un tuo assieme. Tutta la stazione l'ho preso, capito? Ah, è vero, sì, me l'avevi detto. No, ma già chiamo, domani mattina chiamo a, a Davide a vedere quanto costa e se ce l'ha. Se ce l'ha me la faccio mandare nuova, imballata, e la metto a fianco alla mantova, inverto il cavo e faccio la prova. Vediamo quale è superiore, così mi tolgo la soddisfazione. Perché credo che antenne superiore alla mantova non ce ne siano, però io mi ricordo che quella che avevo io, che allora si chiamava Super Stella 24, che mi pare che il prototipo di quella lì, non so se ha 12 radiali, c'era Antonio Crode, e funziona molto molto bene. Ascolta Claudio, io la Roma 1 l'ho trovata, tu come hai fatto a non trovarla? Allora scrivi antenna CB Roma 1 e vai e te la fa vedere. Guarda che te la fa vedere montata sul tetto. Comunque sono sicuro che c'è anche la Roma 5 perché l'ho vista. È tipo c'ha 5 radiali mi pare. Ma per vederla già, cosa devo mettere sulla ricerca? Roma 1 e poi? Allora metti antenna CB Roma 1 e te la fa vedere, la stiamo vedendo la seconda notte, la fa vedere montata sul tetto, su e B. Che sono il radiale che va? Che cos'è? È un ragno, Chi si vuole? Già ti rompe le cornacchie e ti rompono quelli corti, immaginati quelli. È troppo grande il radiale, cazzo. Sono 2 metri di radiali. Sarà l'antenna che c'è la liscia. Non mi piace, non è come la mantova, ui. Questa c'è il radiale, un bel lunghi, poi sono doppi, guarda, vedi sono aggiunti, quello fine, quello grosso, quello lo sai, in una settimana non ce ne sono più radiali. Io voglio mettere la Superstella 24 perché i radiali sono corti, sono 24 e quindi sono molto molto robusti perché sono molto attaccati uno all'altro. Fanno tipo una piastra, no? E non flettono, sono corti, sono da 80 cm, che ci sono da 2 metri radiali? E appunto si aspettano prima se non flettono. No, ma quelli non possono mai flettere già, perché sono corti, quindi non flettono e non succede niente. Non succede niente. Magari si marciscono con l'arco degli anni, l'appoggio, ne cadono da soli, però Quelli, se monto quell'antenna, in un paio d'ore non c'è più radiali. Oh, quando si mosano i 6-7 cornacchi, allora se lo vecescono, assolutamente. Oh, a me mi hanno chiamato a mangiare, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? E anche io parla. Non me l'ho chiamato, ma vado. Perché io ci ho riso in bianco e basta. E io c'ho un po' di funghi in verde. E una bella fettina stanotte, basta. Poi ho mangiato la pasta, quindi stanotte niente, dai. Elio, ci sentiamo dopo. Buona cena a tutti. Ciao, ciao, buona cena, buona carica anche a te. Io non sto bene, Claudio, quindi devo andare a mangiare solo riso in bianco e Oh, ma sempre quel problema là. Allora, c'ho gastroenterite. Quando è? La settimana scorsa il mio collega, 36 anni, c'ha. Cazzo c'è dei verticoli. Io. Andare. Ok, dai. Sentiamo dopo allora. La metto in AM, va. Metto in AM. Poi vediamo se spostarci o no. Ciao. E io anch'io metto in AM a dopo. Ciao a tutti, buona cena. Ciao, ciao, buona cena a tutti.